Diamo il buonasera a Matilde di Eris Edizioni, una casa editrice amica di questa trasmissione di Tabula Rasa, perché spesso condividiamo insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori, dei soprattutto fumetti che escono dalla loro casa editrice, appunto. E oggi andiamo a parlare di un fumetto un po' particolare, perché si chiama Boys Club di Matt Fury. È uno di quei fumetti che rientrano nel mondo dell'underground americano, comico, nonsense, in cui i personaggi sono uno di questi, soprattutto, è diventato molto famoso in rete. E comunque, sono dei personaggi molto particolari, molto sopra le righe. E quindi, tra black humor, nonsense e via dicendo, viene confezionato questo fumetto. Ciao, Matilde. Ciao a Buonasera, di tutti e a nuovo. tutti. Ciao, grazie per l'invito. Sono molto contenta di essere qua con voi. Allora, Matt Fury innanzitutto che autore è? Perché ovviamente attraverso questo fumetto uno si fa un'idea, mentre invece è tutt'altro tipo di autore, nel senso che è anche molto eclettico, disegna un po', illustra e disegna un po' di tutto. Sì, secondo me in realtà è un autore che rappresenta molto bene, possiamo dire, la tipologia di fumettista alternativo nordamericano, nel senso che spesso sono persone che lavorano in diversi ambiti, hanno una capacità artistica pazzesca, lavorano tantissimo sugli immaginari. Gli ultimi suoi lavori, ad esempio, di illustrazioni raccolti da Fantagraphics sono incredibili. Veramente possiamo esplorare, come dire, mondi altri, un carrellate di personaggi veramente unici. E secondo me, appunto, parliamo di carriere che si incrociano, insomma, ha lavorato anche per l'infanzia, quindi sono carriere che si incrociano tantissimo, con ambiti molto diversi della, chiamiamola, produzione culturale, anche se non amo la parola produzione. Sì, tra l'altro appunto questo è un fumetto nato parecchi anni fa, uno dei personaggi, Pepe the Frog, Pepe la Rana, è diventata anche famosa in rete perché è stato usato per diversi meme, soprattutto un utilizzo politico da parte della destra americana, tanto che da costringere Matt Fury a fare causa, ad esempio, se non sbaglio, a quel sito di cattiva informazione, distorsione di destra fascista, quale InfoWar, e si è ritrovato appunto suo malgrado anche a difendere l'immagine di uno dei personaggi di questo fumetto proprio da questa appropriazione da destra. Sì, allora, Boys Club è un fumetto che nasce in parte come autoproduzione, poi appunto è stato raccolto da un primo editore, poi noi abbiamo portato in Italia l'edizione curata da Fantagraphics. Diciamo che noi l'avremmo portata lo stesso, non so come dire, anche se non ci fosse stata la questione di Pepe the Frog, insomma, l'utilizzo vergognoso che ne è stato fatto, proprio perché rappresenta una tipologia di immaginario su cui noi stiamo lavorando, no? Insomma, un'esplorazione di quelle che possono essere controculture, stili di vita, un determinato tipo di ironia, nonsense, black humor. È ancora più, come dire, questa cosa di Pepe ci ha ancora più convinto a farlo, nel senso che spesso si conoscono appunto meme, cose che girano su internet e non si conosce il lavoro del grande artista che in realtà l'ha creato, no? Per cui ci sembrava fondamentale. Io poi noto sempre l'ironia, non so se vogliamo aprire questa parentesi, insomma qui parliamo di quattro personaggi in Boys Club, Andy, Brett, Landwolf e Pepe, che sono insomma dei coinquilini, un po' fattoni che si divertono, passano le giornate, come dire, alla Azi, a fare un po' i cazzoni, si divertono, usano sostanze psicotrope, bevono un sacco di birre, si fanno un sacco di scherzi demenziali. È divertente che poi alla fine la destra scelga personaggi di questo tipo per diventare uno dei propri, chiamiamoli, volti ufficiali di internet. Ecco, troviamo molto contraddittorio, forse, come dire, c'è qualche desiderio inespresso. Come dire, qualche desiderio inconscio. Sì, tra E l'altro Tra l'altro i quattro personaggi non fanno altro che passare il loro tempo come fanno molti adolescenti, come facevo anch'io in passato, quando avevo più o meno l'età rappresentata dai personaggi, appunto, il fancazzismo all'ennesima potenza mischiato a lasci, scialcol, così, ma fondamentalmente appunto scherzi, scemi, stupidi, quello che si fa tendenzialmente poi in gruppi di maschi adolescenti, appunto. Ed è un po' a me ha ricordato altri autori, Mazzuri, ad esempio Hanselmann, proprio perché negli Stati Uniti esiste un tipo di fumetto indipendente che in Italia, che è questo qua, molto sopra le righe, che se non sbaglio in Italia fa più fatica ad emergere. Guarda, secondo me, quando noi abbiamo dovuto decidere come spiegare questo fumetto al nostro pubblico, abbiamo deciso di dirlo che non c'erano storie edificanti, non so come dire, non c'erano messaggi costruttivi, ed è bello che il fumetto sia anche questo, no? Nel senso, io credo che esplorare gli immaginari vuol dire passare da opere più serie, da una creazione di contenuto di un determinato tipo, esplicito, appunto un qualcosa anche di nonsense e divertente, che soprattutto la ricchezza visiva di Mazzuri, ci sono delle tavole di trasformazione dei personaggi psichedelici che sono un qualcosa di incredibile. E, come dire, il fumetto dà anche queste possibilità, l'arte anche questo, ed è giustissimo per noi che abbia uno spazio, c'è cioè bisogno anche di, come dire, di una certa leggerezza, soprattutto quando non è stupida, ma appunto in realtà è anche molto ricercata, no? Non so come dire, chi fa questi tipi di lavori si sbatte un sacco a decidere come disegnare certe cose. E in questi anni si è parlato tanto di fumetto indipendente, soprattutto in Italia, insomma, graphic novel sono entrati in libreria. Sia il fumetto si è aperto, diciamo, anche un pubblico un po' più ampio rispetto a quello che era sino a una decina d'anni fa. Contemporaneamente, forse appunto a forza di parlare di fumetto indipendente, si sono perse un po' le sfaccettature. Spesso, anche negli articoli, insomma, nordamericani che parlano di questo fumetto, si trova l'espressione fumetto alternativo, che forse, no, dà un po' l'idea di un tipo di produzione controculturale, un determinato tipo di ricerca artistica che sta fuori da determinate logiche, anche di quello che è il fumetto indipendente. Forse in Italia questa ampiezza manca, o forse ci sono molte persone che fanno fumetto che vorrebbero farla, ma trovano meno spazi. Diciamo che a volte, anche noi, insomma, quando vediamo tutti i progetti che ci vengono mandati, si ha un po' l'impressione che a volte ci sia voglia di farlo, ma si abbia un po' paura che non ci sia spazio per farlo. Insomma, se uno guarda quello che si trova sugli scaffali, in libreria, in fumetteria, soprattutto in libreria, non ci sono così tante cose non edificanti, il giusto leggere, ecco. In realtà poi negli ultimissimi anni c'è stato un po' di spazio in più. Noi, ad esempio, abbiamo pubblicato Cronache di Amebo di Valo, che ha un taglio diverso, insomma una storia più complessa, sempre ad episodi comunque, dove forse c'è lo stesso tipo di freschezza e di giusto fancazzismo. Però forse è la parte di fumetto che è più facile portare dall'estero, dove è molto praticata, che trovarla qua. Insomma, noi speriamo anche che in realtà portandola faccia venire voglia agli artisti e alle artiste italiane, no? Di provarla, perché insomma sono cose che probabilmente danno una libertà artistica diversa. Sì, sono d'accordo, anche perché forse mancava anche un po' di coraggio da parte degli editori che, anche se in un settore come quello in espansione del fumetto italiano, dove va molto il racconto personale, personalistico, spesso biografico, via dicendo, e non più il gioco raccontato attraverso i fumetti, o anche la quotidianità scema, che poi è patrimonio tante, tanti di noi a seconda delle fasi della vita. È inutile girarci troppo, troppo intorno. Però appunto esiste una scena underground, è difficile poi ormai parlare di underground nel mondo del web, sempre più complicato, però esiste una scena underground in Italia. Mi ricordo una volta, se non sbaglio, a Roma, a Daniel Close, gli chiesero che cos'era il fumetto underground e lui rispose: il fumetto underground, che cos'è l'underground? È un ragazzo che legge i fumetti e non sa chi sono io. Lui rispose così, mi sembrò una risposta geniale, oltre che molto, molto azzeccata, appunto perché forse appunto nel nostro mercato non esiste tutto questo fumetto indipendente. Proprio perché è un mercato piccolo, si fa fatica ad imporre i contenuti e quindi anche le case editrici stesse scelgono sempre più o meno dei contenuti più rassicuranti, o dico una boiata. Ma da un lato ci sta, nel senso è un ragionamento corretto, dall'altro lato credo che la difficoltà, soprattutto in questo momento, sia che viene, insomma, escono tantissimi fumetti, le uscite annuali sono cresciute tantissimo e quindi forse è anche difficile, non tanto per chi lo fa, quindi per chi lo crea e per chi lo pubblica, ma spesso la difficoltà è anche di chi poi, tra virgolette, lo deve vendere, quindi le librerie. Certo. L'alfabetizzazione su quello che è il fumetto, il mondo del fumetto, ovviamente non è scontata, nel senso, una persona ha chiaramente diritto a non averlo mai letto, molto banalmente. Per cui forse è anche più facile, capire, dare spazio e raccontare a chi entra in una libreria un certo tipo di fumetto piuttosto che in un altro, insomma. Come dire, scrivere la trama di Boys Club è una bella sfida. Sappiamo che sono tipologie di fumetto un po' destabilizzanti, ecco, no? Che poi è difficile raccontarle, spiegarle. La cosa più facile è sempre dire, oh, aprilo, guardalo, capisci subito, no? Però non assomigliano, ecco, a un romanzo grafico, no? È proprio fumetto fumetto, forse la difficoltà è anche quella, no? Non è il graphic novel che in questi anni si è cercato anche tanto in qualche modo di nobilitarlo, come se non bastasse di per sé l'opera artistica di chi lo crea, ma bisognasse in qualche modo veicolarlo in modo alto per farlo capire a tutte quelle persone che non seguono il fumetto, che non sono addentro alla scena del fumetto. Nel mondo delle autoproduzioni, secondo me, anche in Italia c'è tantissimo. Sì, Tra l'altro, il mondo delle vero. autoproduzioni, è una scena ancora viva e vegeta, anzi, che si è ingrandita, continuano a spuntare, nonostante i 2 anni di stop per il Covid, tantissimi nuovi festival che portano contenuti con una determinata attitudine, dove molti artisti e molte artiste trovano sicuramente il loro spazio. Sì. È più difficile appunto che magari quelle cose poi riescano a trovare degli altri spazi, no? Nel senso, appunto, noi abbiamo pubblicato anche Big Questions di Anders Nielsen, che era uscito, ad esempio, anche quello originariamente a puntate, cioè qualcosa che esce al libro, qualcosa che esce a spillato, però è un qualcosa che è molto più uso fare. Per cui a un certo punto raccogliere magari un'autoproduzione che per tanti anni è uscita spillata. Questo in Italia succede meno, anche perché appunto siamo un paese un po' più piccolino, proprio come numeri e possibilità di lettura, e quindi forse come dire, chi è interessato a quello già più facilmente lo trova in altro modo, no? Appunto proprio partecipando a questo numero altissimo di festival, che ormai appunto ricoprono veramente tutto il paese, nord-sud, non soltanto le città più grosse, insomma, quindi anche una scena che chi è interessato forse la trova. Sì, sono d'accordo, hai fatto una giustissima precisazione appunto anche a ricordare che esiste una scena nell'autoproduzione che noi ogni tanto all'interno della nostra trasmissione presentiamo, perché anche lì, anche da lì arrivano forse anche le novità più fresche e che vanno a rompere un po' la monotonia di molta della pubblicazione a fumetti che si trovano in libreria. Questo va giustamente, l'hai ricordato e precisato, ma continua, non volevo interromperti, scusa. Ma figurati, no, appunto, è probabilmente il mercato editoriale italiano è più permeabile rispetto a questo tipo di autoproduzione, per cui vediamo che spesso le persone del mondo delle autoproduzioni poi magari fanno il libro per la casa editrice, no? Sì. Quando invece, appunto, magari nel mondo nordamericano è più facile fare una raccolta di quello che è già uscito perché lo si trova molto interessante e genuino. E si decide di dare direttamente spazio a quello. Questo forse è un po' quello che può essere la differenza. Poi parliamo di, come dire, mercati diversissimi, ma allo stesso tempo anche di scene underground indipendenti, veramente con delle complessità diverse. Sicuramente quello che noi abbiamo apprezzato tantissimo di Boys Club, l'avremmo voluto portare anche prima. Come dire, il nostro calendario è un po' rallentato durante il periodo, insomma, non siamo stati unici durante il periodo del Covid, è proprio questo senso di libertà che forse è più autobiografico, no? Di tanti libri autobiografici senza esserlo esplicitamente. Un po' tutte e tutti ci siamo ritrovati da almeno una storia di Boys Club. O comunque in quel senso di cazzeggio, di leggerezza, che da un certo punto di vista è stato tipico anche di certi anni, no? Questo non bisogna generalizzare. Chi è stato, insomma, che ha avuto 20 anni in quegli anni non è sicuramente uguale all'esperienza di magari chi ha avuto 20 anni adesso, in questi ultimi anni. Però sicuramente quel senso di possibilità è un qualcosa che è proprio tipico di quell'età, per cui forse universale. E senza bisogno di essere però edificante, voler portare messaggi altri, insomma, il giusto compromesso tra una ricerca artistica grafica veramente spinta, veramente personale, e però anche la freschezza di volersi divertire e basta, senza stare a pensare, no? Insomma, si può anche ogni tanto non pensare. Ovviamente questa domanda avrei dovuto farla a Valerio Stivè, che ne ha curato la traduzione del libro, perché c'è anche un lavoro di traduzione, adattamento non indifferente, visto che i dialoghi sono, presumo, in originale, molto con un linguaggio slang. Sì, siamo abbastanza impazzito lui, impazzita io che ne ho curato la revisione. Diciamo che per noi Valerio è uno dei nostri traduttori del cuore. Ha tradotto delle cose, dei titoli che sono veramente di una complessità pazzesca, anche se poi magari chi lo legge non ci pensa, no? Perché secondo me solitamente si pensa che una traduzione sia complessa quando è molto letteraria. Pensiamo, noi abbiamo pubblicato De Crécy, che insomma i testi sono molto letterari, pieni di citazioni. In realtà è molto più facile tradurre un Boys Club o come lui aveva anche tradotto per dire Prison Pit. Non è affatto, è forse la sfida più difficile, intanto perché appunto l'Italia è un paese di regionalismi, per cui tante parole, come dire, lo slang è situato, no? Per cui se usi una cosa che si dice a Torino non si dice a Palermo. E neanche a Roma, te lo posso assicurare, Esatto. te lo posso assicurare, ci Quindi c'è sono una dei. complessità legata a quello, prima di tutto. Poi allo slang, ma anche essendo un fumetto che ha un po' di anni, tante cose anche nel linguaggio, nei modi di dire, sono cambiati. Quindi era anche difficile, come dire, scegliere il giusto adattamento storico in qualche modo. E soprattutto rendere quei giochi di parole che in qualche modo sono poi forse quelli che sono veramente impossibili da tradurre, no? Quindi trovare un equivalente che funzioni nella lingua di arrivo, quindi in italiano, e che insomma non tradisca più il sentimento che il senso dell'originale. E Valerio su queste cose è veramente incredibile, secondo me è un traduttore veramente pazzesco. E noi siamo persone felici quando ci dice sì, va bene, lo traduco, sì, va bene, facciamo, perché sappiamo che quell'opera è in buone mani. Senti, andando verso la conclusione, quindi abbiamo anche un po' parlato della scena del fumetto indipendente americano, tu hai citato il fatto che avete pubblicato l'edizione che aveva curato Fantagraphics, che è probabilmente la La più importante, non so se usare la parola più importante, casa editrice dedicata al fumetto, di un certo tipo di fumetto dagli Stati Uniti, sarà forse anche una delle poche che io conosco, però da lì sono usciti tra i più bravi e brave del fumetto indipendente americano, ed è un po' sempre una sicurezza tutto ciò che esce da Fantagraphics. Andando verso la conclusione, un paio. Allora, qual è? Allora, questo è un titolo che un po' nelle varie recensioni italiane tutti quanti hanno tenuto a scrivere, non è un fumetto per tutti, ma questo potrebbe essere usato un po' per tutti quanti i fumetti, tanto quanto romanzi e via dicendo. È difficile che esista un prodotto per tutti. Fatto sta che appunto Matt Fury si va a inserire, come abbiamo provato a raccontare, in un preciso filone che io dicevo prima non ha dei paragoni in italiano, però se dovessi consigliare qualcosa che esce da autori o autrici italiane che ti ricorda questo tipo di fumetto, a chi o cosa penseresti? Oddio, domanda difficilissima. Mi hai fregato. Scusami, non volevo, è proprio la curiosità via, guarda. Allora, facciamo così, non voglio consigliare un'autrice o un autore perché in automatico ne taglierei fuori, insomma, fuori il lavoro di altre persone e lo troverai terribile. Voglio consigliare più che altro un'attitudine, proprio partendo dal fatto del non è un fumetto per tutti, no? Che insomma, per cose che pubblichiamo noi non succede spesso, è una dicitura che piace. Il consiglio è, al di là insomma, delle recensioni del passaparola, che quello è sempre un ottimo aiuto per trovare cose nuove, è aprirsi a un qualcosa che può stupire. Per cui quando, insomma, succede anche a me, nel senso, succede anche a noi che siamo editori, siamo dentro, lo facciamo per lavoro, quando siete in libreria, una fiera, sfogliate, non state a leggere, come dire, la quarta di copertina che vi dice i contenuti, le cose importanti che ci sono dentro il libro, non cercate cose che conoscete, che vi rassicurano, che vi fanno pensare che leggere quell'opera possa essere un buon investimento del vostro tempo, no? Perché quello è il modo per restare sempre nel conosciuto e stare nel conosciuto è più difficile stupirsi. Cercate quello che proprio invece vi colpisce l'occhio a livello grafico, che non pensavate potesse esistere a volte, e buttatevi in quello, no? Nel senso ogni tanto esplorare. È vero. C'è la volta che si resta delusi, ma c'è anche la volta che si scopre finalmente qualcosa di nuovo e che ti può un po' cambiare la visione del mondo in qualche modo, no? Nel senso che più esplori, più le nostre teste si aprono all'altro, alla meraviglia e si aprono gli immaginari e si scoprono nuovi modi anche di pensare, di riflettere e di rilassarsi e di divertirsi quando sono libri più leggeri che inneggiano un pochino anche al cazzeggio. Sono d'accordo, soprattutto a non avere mai aspettative quando si compra a scatola chiusa in questo senso, no? Perché semplicemente perché si viene ispirati da una copertina, da qualche tavola all'interno, da un dialogo. Mi è successo spesso di rimanere sorpreso di acquisti fatti veramente senza sapere quasi nulla di ciò che stavo per comprare. Mi è successo l'ultima volta, ma di avere questo impatto fu appunto con Anselman, che mi ha divertito e mi diverte tuttora molto, nonostante anche lì siamo fuori dai ranghi del fumetto tradizionale come contenuti, come tipo di comicità e tutto. L'ultima domanda che facciamo a tutte le nostre, i nostri ospiti è un romanzo, fumetto, quello che vuoi, che hai letto in quest'ultimo periodo e che consiglieresti a chi ci ascolta. Oddio, anche questo è difficile. devo fare mente locale, ho letto un sacco di cose ultimamente. Qualcosa che ti ha colpito che nelle chiacchiere con amici, amiche, è uscito fuori, no? Sai, ho letto X, è molto bello, Y e via dicendo. Sì, allora, faccio un attimo una ricerca veloce perché non mi ricordo il titolo esatto. Meno male che sono al computer. Allora, c'è un autore che io ho scoperto grazie a un collega editore e che, di cui mi sono innamorata tantissimo negli anni, che è Thomas Gilbert, di Diavolo Edizioni. Consiglio in generale tutto quello che è stato pubblicato, ma una delle cose che mi è piaciuta di più nell'ultimo anno, adesso vediamo che veramente non mi ricordo il titolo, scusate, sto cercando il titolo al volo, io l'ho scoperto con il primo libro che è La saggezza delle pietre, poi ha fatto Le figlie di Salem e l'ultimo libro potrebbe chiamarsi Corpi alchemici, ma adesso non mi ricordo assolutamente il titolo esatto, Corpi alchemici è uno dei libri, dirò questa cosa diversa, non che ho letto nell'ultimo mese, ma che ho letto nell'ultimo anno e che nonostante dopo abbia letto un sacco di altre cose, mi è rimasto talmente impresso che mi immagino che fra 10 anni ancora mi verranno dei flash di tavole, dialoghi, frasi e quindi, come dire, quando leggi un qualcosa che si sedimenta dentro il cervello per tempo, nonostante continui a leggere altre cose, rispunta sempre, no? Nei tuoi pensieri, nelle chiacchiere che fai con le altre persone, secondo me è un libro fondamentale. E quindi. Ecco, io di lui per esempio non ho mai letto nulla, infatti ti ringrazio perché mi ha incuriosito ulteriormente. Vedi, funziona. Assolutamente consiglio tutto il lavoro di Thomas Gilbert, pubblicato in Italia da Diavolo Edizioni. Sì, passaparola funziona anche, funziona. Noi come trasmissione appunto contiamo molto sul passaparola, anche perché spesso arriviamo ai libri e ai fumetti attraverso questo. Se non sbaglio, Le figlie di Salem fu presentato a tabula rasa da una nostra redattrice mesi e mesi fa, ad esempio, perché poi appunto anche all'interno nostro abbiamo delle letture molto molto molto diverse. Ricordiamo che abbiamo parlato di Boys Club, Matt Fury, se non sbaglio sono una 170 pagine, più o meno 176 pagine, più o meno, il costo è 17 euro, è Erist Edizioni, appunto la casa editrice che l'ha portato in Italia. Andiamo a ringraziare Matilde della stessa casa editrice per la chiacchiera e con Eris noi ci risentiamo prossimamente come spesso accade. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutte e a tutti. A presto. Ciao! Ciao ciao.